Storie italiane. La principessa Pel di Topo. C'era una volta un vecchio contadino. Viveva in un villaggio assieme ai suoi tre figli. Tutti e tre erano giovani e belli. L'agricoltore era fiero dei suoi figli e pensò che fosse giunto il momento per loro di sposarsi. Figli miei, siete abbastanza adulti per sposarvi. Una moglie vale come un tesoro per voi stessi. Desidero la vostra felicità assieme al vostro coniuge. Ma padre, dove possiamo trovare le nostre spose? Sì, padre, sarà molto difficile trovare una sposa da soli. Noi ti ubbidiremo, padre, ma per favore consigliaci. Certo, vi aiuterò. Abbiamo una tradizione in famiglia per trovare una sposa e voi tutti dovete rispettarla. Prendete un'ascia e tagliate un albero della nostra fattoria. Osservate dove l'albero cade e cercate la vostra sposa in quella direzione. Ma prima di tagliare un albero, dovete piantarne uno nuovo nella fattoria e prendervene molta cura, capito? Sì, sì, padre. Padre, perché facciamo questo? Piantare un albero prima di tagliarne uno? Perché gli alberi sono molto importanti per noi. Non dovremmo solo tagliarli. Dobbiamo piantarli e far crescere sempre più alberi. I figli obbedirono al loro padre. Ognuno di loro piantò un albero e poi ne abbatterono uno. Il figlio maggiore tagliò un albero e cadde nella direzione nord. Oh, è il nord. Per me va bene. La ragazza che mi piace si trova in quella direzione. Andrò al nord e di sicuro la sposerò. Il secondo figlio tagliò un albero che cadde a sud. Ah, come può sapere quest'albero che amo una ragazza e spesso ballo con lei e vive proprio al sud? Comincerò allora il mio viaggio verso il sud. L'albero del figlio più giovane cadde in direzione della foresta. Entrambi i suoi fratelli maggiori risero di lui. Guarda un po', devi andare proprio in quella direzione. Ehi, allora, Vico, con chi ti sposerai nella foresta? Un lupo o un cervo? Seguirò la direzione dove l'albero è caduto. Sono certo che troverò la mia amata sposa. Tutti e tre i fratelli iniziarono il loro viaggio. Il figlio maggiore si recò ad incontrare la ragazza del nord e chiese la sua mano per sposarla. La ragazza accettò immediatamente la sua proposta. Il secondo figlio si recò al sud e anch'esso fece la proposta di matrimonio. La ragazza prontamente disse sì. Vico si recò nella foresta e percorse un lungo tragitto, ma non vide nessun essere umano. Era deluso e stanco. Quindi cercò un riparo e trovò una piccola capanna nella foresta. Vico era sorpreso di vederla. Entrò in quella capanna e la trovò vuota. Non c'era nessuno, tranne un piccolo topo. Oh, qui non vive nessuno. Ma cosa dici mai? Io vivo qui. Tu sei un topo, non un essere umano. Cosa ci fai nella foresta? Cerco la mia futura sposa. Nella foresta? Pensi che sia un posto ideale per trovare l'amore? No, ma se cerco posso trovarla. Sono molto preoccupato, perché qui nella foresta non ci sono esseri umani. Mi vergogno un po' a tornare a casa senza una sposa. Non ci sono ragazze in questa foresta? Perché non mi prendi come tua sposa? Ma tu sei un topo. Come potresti essere il mio dolce amore? Fidati di me, Vico. Anche se sono un topo, ti amerò e sarò molto fedele. Sì, ma... Il topo iniziò a convincere Vico. Ballò per lui. Cantò una bella canzone. Vico fu felice dell'atteggiamento del topo. E il topo finì la danza e la canzone, attendendo la decisione di Vico. Lo guardava estasiata con occhi dolci e teneri. Mi piaci. Ti prenderò come mia sposa. Il topo fu molto felice della decisione. Promise a Vico di attenderlo finché non sarebbe tornato. Tutti e tre i fratelli tornarono a casa. Ditemi, figli, avete trovato le vostre spose? Io ho trovato una bella ragazza come mia sposa. Ha una dolce boccuccia di rosa. Anche la mia sposa è molto bella. Ha lunghi e morbidi capelli dorati. Cos'è successo, Vico? La tua sposa deve avere denti affilati e lunghe orecchie appuntite. Per favore, non deridetemi. La mia cara sposa è una piccola e deliziosa ragazza ed ha un bel vestito. Allora deve essere una principessa. Sì, e quando lei canta per me, mi sento molto felice. I due fratelli non erano così felici per Bicco. Passarono pochi giorni e il loro padre decise di mettere le spose alla prova. Chiamò a sé i suoi figli e disse: «Voglio sapere se le vostre spose sono brave in cucina oppure no. Chiedete di cuocere una pagnotta per me». Entrambi i fratelli più anziani accettarono, ma Bicco rimase in silenzio. Era preoccupato perché sapeva che il topo non poteva cuocere una pagnotta. Si recò nella foresta e il topo fu molto felice di vederlo. «Sapevo che saresti tornato! Che cosa è successo? Sembri preoccupato!» «Mio padre vuole che ciascuna sposa prepari una pagnotta di pane, ma tu non puoi! I miei fratelli mi derideranno!» «Io invece ci riuscirò! I tuoi fratelli non rideranno di te!» «Non ho mai sentito parlare di un topo che cuoce il pane!» «Ma posso!» Il topo fece rintoccare una piccola campana d'argento 3 volte. Al suo suono, centinaia di topi spuntarono dal nulla. Tutti si riunirono intorno al topo e il topo si presentò davanti a loro con un portamento regale. «Ognuno di voi mi procuri il grano migliore!» Bicco fu molto sorpreso. Tutti i topi partirono e quando tornarono avevano tutti un chicco di buon grano. Raccolsero quei chicchi e li consegnarono al topo, che li cucinò facendo una bella pagnotta di pane. Tutti e 3 i fratelli presero la loro pagnotta e la portarono a casa. Il figlio maggiore portò del pane di segale. «Molto bene! Questo pane è buono per gente laboriosa come noi!» Il secondo figlio portò il pane fatto di orzo. «L'orzo è anche molto buono!» E Bicco presentò il suo pane bianco. «Che cosa? Pane bianco? Bicco, la tua sposa deve essere davvero molto ricca!» «Ovviamente! Non ci avevi detto che era una principessa? Dimmi, Bicco, come fa una principessa ad avere questo buon grano?» «Le basta suonare una campana d'argento e i suoi servi portano il grano migliore!» «Sono contento di tutte e 3 le spose! Sono buone le loro pagnotte! Ma prima di portarle a casa, voglio che ognuna di esse tessa qualcosa per me!» «La mia sposa è un'ottima tessitrice!» «Anche la mia!» Bicco non pronunciò una parola, poiché era sicuro che il topo non potesse tessere. Si recò alla capanna. Il topo capì che era preoccupato. Chiese cosa fosse successo. «Temo che tu non possa farlo. Non conosco un topo che tesse. Puoi?» «Certamente! Per la felicità di Bicco io posso fare tutto!» Ancora una volta, il topo utilizzò la campana d'argento e fece 3 rintocchi. E centinaia di topi entrarono e si sedettero davanti a lei. «Ognuno di voi mi procurerà la migliore fibra di lino!» Seguendo il suo comando, tutti i topi corsero e quando tornarono portarono la migliore fibra di lino. Il topo tesseva un bel pezzo di stoffa. Era così bella che la ripose in un guscio di noce. «Prendi questo, Bicco! Spero che a tuo padre piacerà!» Bicco prese la stoffa e tornò a casa. I suoi 2 fratelli presentarono la stoffa tessuta dalle loro future mogli. «Un cotone grossolano! Non molto bello, ma buono!» Il secondo figlio diede a suo padre ciò che la sua innamorata aveva tessuto. «Un mix di cotone per biancheria! Un po' meglio! Bicco, tu cos'hai per me?» Bicco presentò il guscio di noce. I suoi fratelli lo deriderono. «Papà ha chiesto di tessere un pezzo di stoffa, non un pezzetto!» La loro risata smise quando il loro padre aprì il guscio. Venne fuori un bel tessuto di lino. «Wow! Come è riuscita a fare questo?» «Ha suonato la campana d'argento e ha ordinato ai servi di prendere il tessuto. Poi ha tessuto questo per te.» «Bicco, la tua sposa sembra essere una principessa. Voi 3 potete portare le vostre spose qui a casa. Voglio incontrarle. Portatele domani.» Il topo fu felice della notizia. Si vestì bene, suonò la campana d'argento e ordinò un cocchiere e 5 portantini. Ben presto arrivò il cocchiere e 5 topi che lo seguirono. Picco fu sorpreso di vedere questo. Il topo si sedette sulla carrozza con il cocchiere davanti che guidava per lei. Partirono e si diressero verso la casa di Picco. Picco stava camminando accanto alla carrozza. Non ti preoccupare, mi prenderò io cura di te. E non preoccuparti di mio padre. Lui è una persona molto gentile. Passeggiando per la foresta, raggiunsero la città. C'era una cascata che scorreva accanto a loro. Dovevano attraversare il ponte sul fiume. Mentre lo attraversavano, un uomo si avvicinò dalla direzione opposta. Vide i topi che camminavano, rise e con un calcio li gettò nel fiume. Che cosa hai fatto? Perché hai fatto questo? Hai affogato l'amore della mia vita nel fiume! Il tuo amore? Quei topi? Rise con arroganza e se ne andò. Picco era molto triste per il topo. Guardò nel fiume, ma non li trovò da nessuna parte. Oh, mia povera piccola innamorata! Quanto mi dispiace che tu sia annegata! Detto questo, Picco si voltò e vide un bellissimo cocchiere che stava sull'altra riva del fiume. Era trainato da 5 cavalli. La ragazza più bella era seduta nella carrozza. Picco fu molto contento di vedere quella splendida fanciulla. Proseguì in direzione della sua casa e si avvicinò alla carrozza. Picco, non ti siedi qui accanto a me? Io? Insomma, mi hai voluto come tua sposa quando ero un topo. Di sicuro non mi abbandonerai adesso che sono principessa. Tu eri il piccolo topo? Sì! Ero una principessa sotto il potere di un maleficio. Non si sarebbe mai potuto annullare se non mi avessi accettato come tua sposa e se non fossi stata gettata nel fiume. La maledizione è finita. Ora possiamo incontrare tuo padre, sposarci e vivere nel mio regno. I due si diressero a casa. Il padre di Picco e entrambi i suoi fratelli più grandi erano affascinati nel vedere una principessa come la fidanzata di Picco. Padre, questo è il mio grande amore. La tua amata è veramente una principessa. Dimmi, dove l'hai trovata? Là, dentro la foresta, dove l'albero mi indicava di andare. Dove il tuo albero ha puntato? Ho sempre saputo che è il modo migliore per trovare una sposa. Se i nostri alberi avessero indicato la foresta, avremmo trovato anche noi una principessa. Ma si sbagliavano. Picco conobbe la principessa perché il suo animo era gentile, anche verso un piccolo topo. Il padre di Picco li benedisse e si sposarono. L'amore regnava all'interno di questa magnifica coppia. E vissero felici e contenti.